vogliamo andare alla sua parola. Il runner non c'è, quindi non mi ha portato il palco, ma va benissimo. Ok, sì, arriva anche il palco, grazie. Ritornando alla concentrazione in Lui e chi Lui è per noi, vogliamo andare alla Sua parola, perché, ripeto, non c'è niente come il Suo corpo in momenti difficili e non c'è niente come la Sua parola che ristora, guarisce, dà forza alla nostra anima. E leggeremo insieme un Salmo, il Salmo 62, che io e il pastore Mirko abbiamo guardato insieme. Non c'è niente che ha dato forza alla mia e alla sua anima come questo Salmo. La mia preghiera è che possa fare questo per tutti quanti noi questa sera. Allora chiudiamo tutti i nostri occhi e leggiamo questo Salmo e permettiamo alla parola di Dio di entrare e cambiare e trasformare i nostri cuori. L'anima mia attende in silenzio solo per Dio. Da Lui proviene la mia salvezza. Lui solo è la mia rocca e la mia salvezza, il mio alto rifugio. Io non potrò fortemente vacillare. Fino a quando vi scaglierete contro un uomo e cercherete tutti insieme di abbatterlo, come si abbatte una parete che pende o un muricciolo che cede? Anima mia, per Dio solo aspetta in silenzio. Anima mia, per Dio solo aspetta in silenzio, poiché da Lui proviene la mia speranza. Egli solo è la mia rocca e la mia salvezza. Egli è il mio rifugio. Io non potrò vacillare. Dio è la mia salvezza e la mia gloria. La mia rocca forte e il mio rifugio sono in Dio. Confida in Lui in ogni tempo, oh popolo. Apri il tuo cuore in sua presenza. Dio è il nostro rifugio. Dio è il nostro rifugio. Amen. Vi potete accomodare. Si potrebbero dire migliaia, milioni di cose su questo salmo, però questa sera voglio soffermarmi su due in maniera molto veloce, su due insegnamenti che sono fondamentali secondo me. Il primo è che avremo tribolazioni, e anche questo salmo lo proclama: avremo tribolazioni. Questo salmo lo descrive come, no, Davide si descrive come un muro che pende, come un muro, magari uno dei tanti muri a secchi che abbiamo visto, che si sfalda, che sta cadendo, e che persone ci camminano sopra e si distrugge completamente. Questo è lo stato d'animo del salmista. È distrutto, è disperato, è in dolore. E il salmo lo proclama. Proclama che noi avremo tribolazioni. E io amo la parola di Dio. E io amo il mio Dio. Perché? Perché non fa come lo struzzo che nasconde la testa nella sabbia. Perché non fa buon viso a cattivo tempo. Dice: voi avrete tribolazione. Gesù stesso l'ha detto, no? Lo ricordate? In Giovanni 16. Il Signore ci ha detto: avrete tribolazioni. È una garanzia. Gesù, in altre parole, ha detto: io vi garantisco che avrete tribolazioni. E l'ha detto proprio per preparare i suoi discepoli ad aver pace. Di poco a lì avrebbero vissuto una tragedia immane, la sua morte, e sarebbero stati confusi, sono rimasti molto confusi, persi. Forse come tanti di noi, forse come tutti noi questa settimana, di fronte a una tragedia, che cosa rimane? Se non il dolore, la confusione, la... Però il Signore proprio in quei momenti ci ha detto: io vi dico queste cose affinché abbiate pace. Avrete tribolazioni. Amo il Dio della Bibbia, amo la sua parola, perché ci prepara. Anche questo salmo ci prepara a questo, però grazie a Dio non ci lascia lì. Non ci lascia lì. Gesù stesso dice, no? Avrete tribolazioni, ma fatevi d'animo. si rincuori il vostro spirito, si rafforzi il vostro cuore, perché io ho già vinto. E anche questo salmo non ci lascia lì, non ci lascia lì. Il salmista, nel bel mezzo del suo dolore, nel bel mezzo del suo sconforto, anche confusione, fa una cosa. Dice: io starò in silenzio davanti al mio Dio. Io vado davanti a, in silenzio davanti a Dio. La parola di Dio e Gesù stesso ci dice: avrete tribolazioni, c'è una battaglia in atto, punto. Non siate sorpresi, non siate colti di sorpresa, perché questi momenti ci saranno, ci saranno, ci saranno. Ma una cosa possiamo fare, e una scelta abbiamo davanti a noi, e una scelta aveva il salmista nel Salmo 62, quando era quel muro che stava per crollare, quando era preda della disperazione, della difficoltà, del tumulto, della confusione, aveva una scelta da fare. Uno, cadere nella disperazione totale, lasciarsi andare a quello, o due, scavare profondo nella sua fede e scavare profondo in chi Dio era per lui. E indovinate un po' che cosa ha fatto il salmista. Davide, il re Davide, che cosa ha fatto? Ha detto: sì, io sarò pure confuso, sarò pure in preda alla disperazione, sarò nel bel mezzo della più difficile difficoltà che ho mai affrontato, però faccio una cosa, io sto in silenzio. L'anima mia attende in silenzio solo per Dio. Nel bel mezzo della confusione, nel bel mezzo della disperazione, nel bel mezzo del dolore, Davide fa una cosa. Rivolge il suo sguardo a Dio e dice: nel mio silenzio io guardo a te. Io sarò pure confuso. Io sarò pure, non so che cosa mi sta succedendo. Io sarò così afflitto dal dolore che non ho neanche le parole per esprimere qualcosa, faccio una cosa. Io sto in silenzio davanti a te. Questo è quello che fa Davide. E poi fa una cosa eccezionale. Come ho detto, scava a fondo nella sua fede. Proclama alcune cose di Dio. Ricorda alcune cose di Dio. Lì proclama: Dio, solo tu. Più volte in questo salmo Davide ripete: Dio solo tu, Dio solo tu sei il mio rifugio, Dio solo tu sei la mia fortezza, Dio solo tu sei la mia speranza, Dio solo tu sei la mia salvezza, Dio solo tu sei la mia gloria. Questo è quello che fa Davide nella sua disperazione, nel suo dolore, nella nostra confusione, nel nostro dolore. In questa settimana, in queste settimane particolari, abbiamo una scelta. Nelle tue situazioni difficili della tua vita hai sempre una scelta da fare. Lasciarti andare alla disperazione o rifugiarti in chi Dio è per te, nella tua fede, in certezza di cose che non si vedono, ma si sperano. Questo è quello che ha fatto il salmista. Vedete la cosa gloriosa che ha fatto? Quindi ci sono queste due grandi lezioni. Una, che la Bibbia non fa lo struzzo che nasconde la testa nella sabbia, ci promette che avremo tribolazioni. E la seconda cosa che fa è darci l'antidoto. È l'antidoto alla disperazione, la soluzione al dolore e alla disperazione è la fede. È l'unica cosa, è la fede nel nostro Dio che è più grande. È nella nostra disperazione, nella nostra confusione, nel nostro dolore, noi possiamo fare una cosa: chiudere i nostri occhi, stare in silenzio e dire: Dio, tu sei il mio rifugio, Dio, tu sei la mia fortezza, Dio, tu sei la mia salvezza, Dio, tu sei la mia speranza. Anche se adesso sono confuso, anche se adesso stento anche a crederci a queste cose, io lo confesso per fede. Questo è quello che fa Davide, questo è quello che fa il re Davide. Sapete, queste sono le due verità che accompagnano un po' tutti i salmi. Però poi risolve in una cosa gloriosa il salmo. Risolve nel metterlo in pratica. Però prima di metterlo in pratica voglio illustrare una cosa proprio che è bellissima, perché noi che abbiamo fede, di fronte alle difficoltà, di fronte alle disperazioni, di fronte a quello che anche abbiamo vissuto questa settimana come Chiesa, noi siamo forti, vero? Noi siamo saldi, vero? Noi non abbiamo dubbi, noi non abbiamo incertezze, vero? Vero? Io no. Però sentite quello che dice il salmista stesso. Nel verso 2 dice: io non potrò fortemente vacillare. Dice: io vacillerò. Quando la tempesta mi affronterà, quando il lupo mi assalirà, io vacillerò. Io sarò forse anche un po' confuso. Il dubbio, la radice del dubbio mi verrà. Qualcosa mi assalirà, ma non fortemente. Ma non fortemente. Non completamente, perché che cosa faccio io? È la scelta di nuovo. Io vado al mio Dio, io riposo in Lui, perché nel bel mezzo della mia difficoltà, nel bel mezzo della mia situazione, nel bel mezzo della mia disperazione, Lui è il mio rifugio, Lui è la mia fortezza, Lui è la mia speranza, Lui è la mia salvezza, Lui è la mia gloria. E il Salmo fa una cosa gloriosa, passa dal proclamare questo, dal dire questo, a metterlo in pratica. L'unica differenza fra i primi due versetti è il versetto 5 e 6, è proprio questo, sono quasi identici, se poi li andate a rileggere anche a casa, sono quasi identici. L'unica cosa che cambia è che il salmista, come abbiamo già visto anche nel Salmo 13, inizia a predicare a se stesso. Lo mette subito in pratica, inizia a parlare a se stesso e dice: anima mia. Se prima ha detto l'anima mia, in un contesto, in una situazione ipotetica di questa cosa, va così. Qui passa l'azione, dice: no, l'anima mia, inizia a parlare alla sua, inizia a predicare a se stesso. Anima mia, trova riposo, trova silenzio, trova rifugio, trova forza, trova speranza solo in Dio. Inizia a predicare a se stesso. E questo vogliamo fare insieme. Vogliamo farlo insieme. Ci alziamo in piedi. A prescindere da quello che è stato, a prescindere da quella che è stata la tua settimana, a prescindere dalla difficoltà che ti sta davanti, che ci sta davanti anche come Chiesa, dal fatto che stiamo per uscire anche, dobbiamo essere luce, non possiamo dare di nostra luce se non abbiamo luce da Lui. Allora predichiamo noi stessi in questo momento, dove la fede ha vacillato, va benissimo, fratello, sorella, amico, amica. Dove sei stato confuso, dove ancora magari sei confuso e non sai perché Dio permette alcune cose, va benissimo, va benissimo. Inizia a predicare all'anima tua che tuo Dio è più grande, che tuo Dio è la forza, che tuo Dio è la rocca, che il tuo Dio è la fortezza. Prendiamo alcuni minuti in silenzio, per stare in silenzio, proprio come ha fatto il salmista. Io andrò a Dio e starò in silenzio. Prendiamo alcuni minuti per fare questo e poi canteremo un coro insieme. E durante questo coro predica a te stesso. Predica a te stesso i versi di questo salmo. Predica a te stesso, anima mia, sta in silenzio solo davanti a Dio. Perché solo in Lui c'è la mia speranza. Perché solo Lui è la mia rocca. Perché solo Lui è la mia salvezza. Perché solo Lui è il mio rifugio. E io non potrò vacillare. Neanche fortemente. Prendiamo alcuni minuti.